E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia. Con Valeria De Rosa. Eccoci qua, buonasera a tutti, il mio nome sulla sigla di apertura l'avete sentito, quindi rassicuro subito tutti gli ascoltatori che tra un po' cominceranno ad inondarci di messaggi con quando torna Barisoni, dove andate e quant'altro. Ritorna domani regolarmente. Oggi ci sono io con voi a tenervi compagnia per raccontarvi quello che è successo in questa nuova ed intensa giornata piena di notizie economico-finanziarie, ovviamente giornata e seduta molto interessante sui mercati finanziari internazionali, sia sul versante azionario che obbligazionario. Una giornata piuttosto buona. Oggi sicuramente gli investitori hanno cercato di cogliere tutte le opportunità di mercato che si sono create nelle ultime giornate, che sono state invece molto negative. E quindi c'è stato un grande shopping di titoli che si erano pesantemente svalutati, in sostanza sottovalutati, diciamo quello che vogliamo, ma in sostanza avevano perso un bel po' di terreno, per cui oggi ricoperture a piene mani, soprattutto sul comparto bancario, che è il grande protagonista anche della seduta di Milano. E però Milano, che per la verità quando le cose vanno male perde sempre molto più terreno delle altre piazze europee, oggi pur avvicinandosi ad una chiusura con un rialzo di 2 punti percentuali, non è la miglior piazza d'Europa, perché lo sarà presumibilmente Francoforte, che sta segnando un rialzo del 2,43%, Parigi più 1,40%, Londra più 2,12%, ed è molto ben impostata anche Wall Street, che segna rialzi sia sul Dow Jones che sul Nasdaq di circa 2 punti percentuali. Oggi è arrivata una raffica di indicatori macroeconomici, poi ve li racconteremo, sembrano tutti discreti, per cui probabilmente anche tutto questo sta spingendo oggi questo vistoso recupero sul mercato azionario. È vistoso, ma ne serve ancora un bel po' di recupero prima di arginare le perdite che si sono registrate invece nelle ultime sedute. Molte indicazioni interessanti anche sul versante obbligazionario, perché oggi pensate che ad un'asta di titoli di Stato a 5 anni del governo tedesco, ebbene, la grande e sicura Germania oggi non è riuscita a vendere tutti i suoi bond. E anche questo è un'ulteriore testimonianza del fatto che l'attenzione sul mercato obbligazionario non risparmia nessuno. Nella notte l'altra notizia aveva provocato un po' di agitazione. Standard & Poor's ha messo in credit watch negativo, sotto osservazione con implicazioni negative, il debito portoghese, come se non si sapesse che insomma il quadro portoghese si va deteriorando di giorno in giorno, e ancora una volta insomma le agenzie di rating arrivano un pochino tardi, ma questa oggi è una polemica che ci risparmiamo. In ogni caso Lisbona ha collocato molto bene i suoi titoli di Stato a 12 mesi, doveva collocare un importo di 500 milioni. La domanda è stata 2,5 volte l'offerta, per cui qua veramente il mondo sta andando come vuole, e comunque si cerca un extra rendimento, ed evidentemente questi titoli di Stato, che devono riconoscere un rendimento più alto per poter trovare il consenso da parte della domanda, è chiaro che in questo momento stanno andando a ruba, anche se noi diamo sempre l'indicazione, almeno agli investitori privati e piccoli, di stare lontani da questo mercato. Lasciamolo agli investitori professionali in questa fase, che probabilmente sono un po' più preparati a correre appunto i rischi che questo settore in questo momento sta presentando. Anche di questo parleremo della situazione italiana, perché oggi ha suscitato intanto molta attenzione le pagine che ci siamo guadagnati sul Financial Times, la prestigiosa Lex Column intitolata Italy, in cui ci si domanda se l'Italia seguirà nella crisi Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna. Poi vi leggerò qualche passaggio di questo articolo. Poi parleremo anche di consumi. Oggi Confcommercio ha presentato le sue indagini previsionali sui consumi di Natale, su come le famiglie italiane destineranno la loro 13ª, e sentiremo appunto che cosa è emerso. Abbiamo un bel po' di notizie dunque anche oggi, che potete, se vorrete, commentare con noi al 349-238-6666, e allora adesso andiamo alle altre notizie in breve della giornata. Ecco. Eccoci qui. Allora, come sapete, la prima notizia del giorno è generalmente dedicata all'andamento del mercato del petrolio. Oggi a New York è aperto a $85,32 al barile. Questa mattina era piuttosto spumeggiante anche la quotazione del Brent a Londra sugli $86. Tutta colpa, ci hanno detto gli analisti, della stagione invernale che è molto più intensa del previsto. Sono arrivate, come sapete bene, non solo nel nostro paese, ma anche in tutta Europa, delle nevicate molto intense, quindi freddo intenso e petrolio su. Andiamo agli Stati Uniti, come vi dicevo, oggi raffica di indicazioni macroeconomiche, ma prima di queste partiamo con un'altra notizia molto carina, interessante. Dopo il Black Friday di appunto venerdì scorso, la giornata che dà l'inaugurazione alla stagione dei consumi sotto Natale, è una giornata in cui tutti i negozi, le grandi catene commerciali americane appunto propongono degli sconti incredibili e quindi ci si mette in fila anche davanti alle marche più o meno prestigiose sin dalle 4 e 5 del mattino. C'è un altro indicatore che si chiama invece Cyber Monday, le vendite online americane, è un indicatore che testa proprio come vanno le vendite su internet. Ebbene, le vendite online durante questo Cyber Monday hanno sfondato quota $1 miliardo. Lunedì scorso, per l'appunto, queste vendite sul canale online sono salite qualcosa come il 16% ad oltre $1 miliardo ed è la prima volta nella storia che viene superata quota 1 miliardo in un solo giorno. Il Cyber Monday 2010 si afferma così come il giorno record per lo shopping online americano. Andiamo agli indicatori macroeconomici. Il primo che è uscito oggi molto presto, intorno alle 13.30, non è che fosse propriamente positivo, perché le richieste di mutui ipotecari negli Stati Uniti sono crollate del 16,5%. È un dato che si riferisce all'andamento della scorsa settimana, dopo il forte rialzo dei tassi trentennali sui prestiti che hanno gelato i rifinanziamenti. Nel dettaglio, le richieste di mutuo per l'effettivo acquisto di un immobile hanno segnato un aumento dell'1,1%, mentre le domande di rifinanziamento sono precipitate del 21,6%. Andiamo alla spesa edilizia in ottobre negli Stati Uniti. A proposito di settore edilizio, ovviamente noi dedicheremo anche tra un po' il nostro primo approfondimento alla grande manifestazione degli Stati Generali delle Costruzioni che si è tenuta oggi a Roma. Ne abbiamo parlato diffusamente nel corso del giornale radio e ci faremo raccontare dal presidente dell'ANCE come è andata quest'oggi. Bene, negli Stati Uniti invece che cosa è successo? Che è salita questa spesa appunto in ottobre dello 0,7%. Licenziamenti programmati nelle aziende americane a novembre sono diminuiti di appena il 3,3% rispetto allo stesso mese di un anno fa, evidenziando il ribasso più debole da maggio 2009. Il sondaggio effettuato dalla Challenger Gray & Christmas, secondo cui nel mese scorso i tagli annunciati sono stati 48.711, la cifra più elevata da 8 mesi a questa parte. L'attesa ora è per la statistica ufficiale sulla disoccupazione che verrà diffusa venerdì. Ancora un dato sull'occupazione, anche questa è una statistica che viene accuratamente tenuta sotto osservazione negli Stati Uniti, è quella che viene divulgata dall'agenzia privata ADP, secondo la quale nel mese di novembre il settore privato statunitense ha creato 93.000 posti di lavoro e vedremo appunto se il dato ufficiale di venerdì confermerà queste anticipazioni. Ancora un dato, negli Stati Uniti ancora due ne abbiamo, il tasso di produttività del terzo trimestre del 2010 è cresciuto del 2,3%, mentre l'indicatore ISM manifatturiero in novembre è calato a 56,6 punti. Ancora un paio di notizie prima di andare al primo tema di oggi. Volevo leggervi questo. Il governo statunitense ha inviato in Spagna la vice segretaria del Dipartimento del Tesoro Brainard per colloqui sulla crisi del debito sovrano che sta attraversando l'Europa e che ha fatto toccare in questi giorni nuovi record anche ai bond spagnoli. La Brainard lascerà la capitale spagnola, sta lasciando in queste ore la capitale spagnola e poi si sposterà in Francia. Lasciamo allora le notizie in breve, ne abbiamo date pochissime, ma ci ritorneremo dopo. Ci sono anche delle dichiarazioni oggi del ministro Tremonti che hanno suscitato un po' di preoccupazione, ve la anticipo, poi la commenteremo anche nella seconda parte della trasmissione con il nostro Dino Pesole. Oggi a un certo punto Tremonti nel corso di una riunione ha detto: la situazione è indecifrabile, lo ha detto durante l'incontro fra regioni e governo, questo lo ha detto in tema di situazione dei mercati finanziari e questo un po' è stato chiarito chiaramente letto con qualche preoccupazione da parte del governo, che peraltro oggi aveva convocato anche il Comitato di Stabilità Finanziaria. Poi il Tesoro ha corretto, ha detto che queste sono frasi che non sono state mai dette dal Ministro dell'Economia. Di fatto, insomma, un pochino di tensione intorno a questa vicenda oggi si era creata, ma noi ci torneremo dopo. Adesso direi di lasciare queste notizie in breve, andiamo subito al primo approfondimento di oggi. E allora, costruttori ed operai insieme in piazza contro la crisi. Per la prima volta le organizzazioni delle imprese edili hanno protestato stamane insieme ai sindacati dei lavoratori del settore per il rilancio del comparto, una manifestazione nazionale che ha visto tutti gli operatori del settore arrivare da ogni parte d'Italia e che ha visto riunite le 14 sigle promotrici degli stati generali delle costruzioni, dall'ANCE alle cooperative, da Confartigianato alla filiera dell'indotto riunita in Federcostruzioni, e poi i sindacati Fillea CGL, Filca CISL e Feneal UIL. Allora io saluto e ringrazio di essere con noi, che tra l'altro può concederci pochi minuti. È stata una giornata molto intensa per il presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, Paolo Buzzetti. Presidente, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. E allora, che dire di questa giornata? Abbiamo visto in questi giorni, Presidente, manifesti che sono stati appesi ovunque per denunciare il vostro disagio. Lo Stato non paga, il Paese chiude, il futuro si costruisce insieme, spariti 250.000 posti di lavoro nell'edilizia. Come vi siete trovati in questa dimensione di manifestanti in piazza a Roma? Bene, insolita, unica, nel senso insieme operai, tecnici di impresa, progettisti, costruttori, tutta l'industria delle costruzioni, un pezzo molto importante della società civile e dell'economia. Abbiamo voluto rappresentare, come lei diceva bene, il disagio di una situazione non più insostenibile, dove a vecchie questioni che non vanno, burocrazia, fisco e il funzionamento, diciamo, non buono del settore delle costruzioni, e si sono aggiunti fattori di crisi come i mancati pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche a causa del patto di stabilità e le risorse che scarseggiano sempre di più. Con grande responsabilità noi vogliamo contribuire assolutamente con decisione alla ripresa dell'economia italiana, e secondo noi l'industria dell'edilizia, attraverso le infrastrutture, attraverso il risanamento delle scuole, il risanamento del territorio dal punto di vista idrogeografico, il risanamento naturalmente delle nostre città e la riqualificazione, può dare questo grandissimo contributo, e noi siamo per dire che non possiamo continuare così passo per passo. Qui ci vuole una grande svolta, bisogna toccare i temi di fondo, bisogna fare le grandi riforme, bisogna partire con decisione, con un grande progetto. Anche la Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, oggi ha espresso il proprio sostegno alla vostra iniziativa, ricordando alcuni dati fondamentali che sono quelli che rappresentano pienamente il settore. Il settore edilizia occupa 300.000 imprese, 3 milioni di lavoratori, rappresenta l'11% del prodotto interno lordo italiano. Presidente, quante imprese sono fallite negli ultimi anni? E a causa della crisi, ma non solo, a causa poi del mercato immobiliare che si è fermato, e soprattutto di questo elemento che il collega Giorgio Santilli sul Sole 24 Ore stamattina definisce odioso, quello che lei ricordava, il ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Quanto vi colpisce tutto questo in termini numerici? Ma parliamo di migliaia e migliaia di imprese, si parla di 7-8 mila secondo i dati di Unioncamere. Del resto questo è una, diciamo totalmente in sintonia ovviamente con la Presidente Marcegaglia, è una situazione estremamente critica. I mancati pagamenti, oltre che naturalmente portano sui più piccoli della catena, ovviamente della filiera dell'edilizia, a portare a condizioni di grave disagio fino alla chiusura finale, c'è indiscutibilmente un problema di etica e di convivenza civile, cioè lo Stato per primo che deve rispettare i patti, e naturalmente anche nel privato bisogna raggiungere un momento in cui si debba pagare, specie in un momento così di crisi gravissima, debba pagare chi deve farlo, rispetto naturalmente al proprio creditore. Questo è un passaggio fondamentale per il quale abbiamo studiato molti meccanismi anche con la Cassa Depositi e Prestiti per quanto riguarda le opere pubbliche. Si attende soltanto una decisione che non può essere più rinviata sull'argomento. E siete in qualche maniera stati interpellati dal governo dopo la manifestazione? C'è una sensazione di convocazione? Sì, Sì, abbiamo avuto una serie di incontri importanti sia con delegazioni parlamentari sia con il governo. Siamo stati ricevuti dal sottosegretario Letta e dal ministro Matteoli e abbiamo fatto una lunga discussione dei problemi, abbiamo chiesto, al di là delle cose che ci sono state presentate come stati raggiunti, alcune cose che stanno avvenendo in queste ore, anche impegni importanti per il futuro sui temi di cui dicevamo. Presidente, io la ringrazio per essere stato con noi e naturalmente le auguro buon lavoro. So che peraltro oggi viene tirato un po' per la giacchetta da numerose come dire, altre realtà radiofoniche e televisive, perché è stata oggi la vostra giornata. Lei ha parlato peraltro di una piazza coraggiosa, ma 3.000 partecipanti, si aspettava qualcosa di più? È stata una giornata anche dal punto di vista meteorologico che ha reso un po' difficili? No, assolutamente, sono venuti tutti quanti, anzi in numero eccezionale, nonostante il cattivo tempo, nonostante le manifestazioni di Roma, siamo stati veramente felici e contenti di questa grandissima partecipazione e del consenso che abbiamo avuto da regioni, comuni, province, attenzione del Parlamento e attenzione del Governo. Non poteva andare meglio di così, adesso dobbiamo riuscire veramente nell'interesse delle nostre imprese, dei nostri lavoratori, delle loro famiglie, dei nostri dipendenti, ma anche del Paese, a portare a casa qualche buon risultato. Le intenzioni ci sono e vogliamo scongiurare questo pessimismo, affrontare a faccia aperta la crisi per trovare le soluzioni. Grazie Presidente Buzzetti, buona serata. Grazie a tutti. A presto, buon lavoro. Grazie. E naturalmente, come vi ho già detto, insomma, insieme al presidente Buzzetti, che guidava questa manifestazione di Roma di oggi, c'erano anche le sigle sindacali e quindi tutti i rappresentanti di questo comparto, appunto gli stati generali davvero delle costruzioni. Il nostro Vincenzo Miglietta oggi ha seguito la manifestazione e ha raccolto davvero un bel po' di voci, per cui abbiamo raccolto le impressioni generali. Il primo che sentiamo è il segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, che appunto ha auspicato una ripetizione anche di una iniziativa come questa che ha messo insieme imprenditori e lavoratori. Bisogna mobilitare la spesa, è incredibile che in tutti questi anni di crisi la spesa ha avuto ancora rilento sia nella spesa centrale che in quella locale. Eppur lo sanno tutti, le opere pubbliche interessano moltissimo le imprese e poi fare opere pubbliche significa anche mettere in moto l'economia, è la classica leva anticiclica per combattere una economia stantia, quindi davvero incomprensibile come ci sia seduti così tanto in questi anni. Quindi è un'emergenza che coinvolge sia i costruttori che i lavoratori? C'è da difendere il lavoro, è chiaro che sono messi in discussione imprese e lavoratori, ecco perché sono insieme. Senza il lavoro saranno in difficoltà ambedue gli interessi. Ambedue hanno molti interessi in comune, poche cose le dividono, molte cose invece le uniscono. Quella di oggi non deve essere confusa con una manifestazione corporativa, ma è il segno della crisi e di un governo che non fa nulla per la ripresa. Questa la voce di Susanna Camusso, segretario generale della CGIL, che ha commentato il presidio che si è tenuto oggi a Piazza Montecitorio, che appunto lo ricordiamo ancora perché è stata un'esperienza effettivamente piuttosto inedita, le organizzazioni sindacali protestare insieme a quelle delle imprese per il rilancio del settore delle costruzioni. E le ragioni della manifestazione ce le ha spiegate il presidente Buzzetti, ma abbiamo ascoltato dopo Bonanni anche le voci dei sindacalisti del settore e Vincenzo Miglietta ha raccolto la voce di Walter Schiavella, segretario generale della Fillea CGIL. Per rivendicare una politica di sviluppo del quale il Paese ha bisogno, uno sviluppo che non nasca soltanto su una spinta a fare pur che sia, ma che sia una risposta ai problemi del Paese, che sono i problemi che riguardano l'assetto del suo mezzogiorno, che sono problemi che riguardano la qualità delle sue imprese, la qualità del suo lavoro. Abbiamo chiesto di sbloccare il patto di stabilità un anno e mezzo fa, risposte zero. Abbiamo chiesto una politica di investimento in infrastrutture, la risposta è una delibera CIPE, quella di novembre, che come tutte le altre fa solo carta. Abbiamo chiesto di regolare il mercato, cosa che non costa, e abbiamo ancora un settore governato dai massimi ribassi, da una catena di subappalti infinita, con controlli ridotti per i tagli alla spesa pubblica e agli organici dei servizi ispettivi. Si muore ancora nei cantieri, le mafie entrano in questo settore, anche per questo, perché in questo quadro, in questo mercato, solo le imprese illegali e le imprese criminali possono prosperare. Le imprese sane sono in questa piazza perché non ce la fanno più e su questo abbiamo costruito questa convergenza di obiettivi. E le conseguenze di questo momento negativo sull'occupazione quali sono? 250.000 posti di lavoro persi nell'intera filiera, ma soprattutto anche un impoverimento in termini retributivi, un impoverimento della qualità e del livello di fruizione dei diritti, della regolarità del lavoro, che è a tutto vantaggio dell'irregolarità e delle imprese criminali. E ancora un'altra voce, sempre dal mondo sindacale, le priorità per far ripartire il settore. Antonio Correale, segretario generale della FENEAL UIL, ancora al microfono di Vincenzo Miglietta. Le priorità innanzitutto per far ripartire, diciamo, il circolo virtuoso che è rappresentato dal settore delle costruzioni. In particolar modo attivare il superamento del parte in deroga, che possono, come dire, dare possibilità e capacità agli enti locali e ai piccoli comuni di far iniziare le piccole opere di manutenzione ordinaria, che possono creare un circolo virtuoso che consente appunto di fare da volano al mondo delle costruzioni. Il secondo punto è quello di fare una seria politica di infrastrutture all'interno del nostro paese, ma che siano non progetti sulla carta, che non abbiano riscontro se non fra 2 o 3 anni, che abbiano certezza di immediata cantierabilità, insomma, no? E che non ci siano i 1.000-1.500 giorni necessari fra il progetto di massima al progetto esecutivo. Il paese oggi ha bisogno di infrastrutture importanti, serie, concrete, utili per il paese, ma che abbiano, diciamo, la certezza di intervento immediato. E allora, insomma, raccontandovi la manifestazione degli Stati Generali delle Costruzioni di oggi a Roma, siamo arrivati alla già chiusura della prima parte del nostro programma. E però prima vi voglio ricordare come si sta avviando la chiusura, la seduta sul mercato azionario europeo. Oggi un brindisi, e comunque più che brindisi chiamiamolo un po' sospiro di sollievo, quindi recupero anche tecnico dopo le enormi perdite degli ultimi giorni, l'enorme tensione degli ultimi giorni. Milano sta mettendo a segno un rialzo che si è un po' rafforzato negli ultimi minuti, più 2,51%, ma la miglior piazza d'Europa oggi dovrebbe essere Francoforte con un più 2,56%. Poi vi diremo anche cosa è successo, perché qualcuno ce lo sta chiedendo, visto che l'abbiamo lanciata in apertura così sull'asta dei titoli a 5 anni del tesoro appunto tedesco. Un ascoltatore chiede: ma insomma, sulle auto oggi avete intenzione di dire niente? Certo, avremo le immatricolazioni per il mese di novembre alle 18 e faremo un focus anche su quello a tra pochissimo. E sono le 17.36 e 32 secondi, ancora buona serata da Deborah Rosciani. Riprendiamo la nostra carrellata di notizie economico-finanziarie della giornata. Abbiamo dedicato la prima parte della nostra trasmissione alla manifestazione e agli Stati Generali delle Costruzioni di questa mattina di Roma, costruttori e sindacati insieme in un connubio effettivamente inedito, ma insomma il settore in una crisi profonda per tante ragioni, per la crisi, per lo stallo del mercato immobiliare, ma soprattutto è l'aspetto che hanno definito appunto gli stessi costruttori più odioso per una pubblica amministrazione che non paga, un ritardo clamoroso. Sono soprattutto ASL e comuni a ritardare i pagamenti, bloccati da tante ragioni, per i piani di rientro dei disavanzi sanitari, per i vincoli del patto di stabilità interno, ma di fatto in sostanza il governo e la politica devono prendere seriamente in mano questo problema, perché sono troppi i posti di lavoro che si stanno perdendo in questo comparto e naturalmente anche in tanti altri. Purtroppo adesso però andiamo alle buone notizie della giornata, e per fortuna oggi sono arrivate dalla borsa. Cominciamo dagli Stati Uniti, dove oggi sono arrivati i dati economici che il mercato ha voluto leggere come positivi, e dunque Wall Street sta segnando un rialzo sul Dow Jones dell'1,78%, sul Nasdaq del 2%, Standard & Poor's più 1,24%, ma oggi c'è un buon recupero dei listini europei. Il quadro vede Parigi segnare un rialzo dell'1,63%, oggi regina d'Europa Francoforte, che ha fatto fatica a vendere un po' di titoli di Stato, ma oggi sul mercato azionario gli investitori hanno fatto man bassa, più 2,66%, Londra più 2,21% e Milano più 2,41%. Bene il settore bancario, quasi tutti i titoli hanno rimbalzato dopo le perdite degli ultimi giorni. Allora commentiamo tutti i singoli casi con il nostro Andrea Fontana, collega di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Andrea, buonasera. Buonasera Deborah. Da che cosa cominciamo? Allora, sì, le banche, dicevamo Unicredit, miglior titolo della giornata, più 6,51%. Abbiamo avuto poi anche un buon recupero di Fondiaria, più 6%, che per la verità nelle ultime settimane era stata trascinata a ribasso non tanto dalle vendite che erano scattate ed erano state molto intense sulle banche per la crisi, ma perché ha avuto delle ragioni tutte sue. Oggi un rimbalzo per una rinnovata fiducia degli investitori o proprio è stato poco più che tecnico, Andrea? Beh, certamente la componente tecnica è da considerare visto gli aspetti macroeconomici che hanno influito sul rimbalzo dei listini di oggi che tu ricordavi, ma va anche segnalato che Fondiaria Assai e Milano Assicurazioni, l'altra compagnia assicurativa del gruppo Ligresti, hanno annunciato ieri sera la vendita di due immobili con una plusvalenza superiore ai 70 milioni di euro, una entrata che permette di migliorare i margini di solvibilità del gruppo, certamente non risolve lo stress finanziario delle due compagnie in questa fase, ma che certamente ha contribuito, diciamo così, a far allungare il passo al recupero del titolo, non solo quello di Fondiaria Assai che ha guadagnato appunto il 6%, ma anche quello della Milano Assicurazioni che ha guadagnato il 6,4%. Allora, bene, i bancari, dicevamo che veramente sono stati nel vortice delle vendite nelle ultime giornate per la crisi che si è scatenata di nuovo per le tensioni sul debito sovrano dell'economia dell'Eurozona dopo la presentazione del piano per il salvataggio dell'Irlanda nel fine settimana, e chiaramente le banche pagano di più e Milano, essendo molto esposta sul settore bancario in termini di composizione del listino, chiaramente paga sempre il prezzo più alto d'Europa, anche se oggi non è stata la miglior piazza d'Europa perché con il rimbalzo dei titoli bancari magari ci aspettavamo anche questo primato che è stato mancato, comunque non è andata male. Unicredit più 51, UbiBanca più 4, ne cito qualcuna, Monte dei Paschi più 3,34, Banco Popolare più 3,22, ce n'è stata una invece di banca che ha avuto un atteggiamento un po' più debole, Andrea. Popolare di Milano, che cosa le sta succedendo? Popolare di Milano, anche se poi è riuscita a recuperare parzialmente proprio nelle ultime fasi di contrattazione e quindi ha chiuso con un guadagno dell'1,5, non troppo inferiore, diciamo, all'andamento del listino milanese, ma certamente sotto l'indice bancario europeo che ha guadagnato il 3,9%. Popolare di Milano ha sofferto oggi queste notizie in merito a un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate per complessivi 313 milioni di euro, un contenzioso che sarebbe in discussione, è stato all'attenzione anche del Consiglio di amministrazione di ieri, e è possibile che il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate porti a una transazione per il quale circolano i rumors, circolano ipotesi di una cifra vicina ai 200 milioni di euro. Questo è quello che è il motivo che ha depresso il titolo nella prima parte della giornata, anche se poi, come ricordavo, c'è stato un lieve recupero nell'ultima fase della giornata. Certo, dato l'elenco delle prestazioni dei titoli bancari di oggi, non ho detto tutti i titoli, per cui qualche ascoltatore già si lamenta, allora cerchiamo di colmare immediatamente la lacuna. Monte dei Paschi più 3,34, Intesa più 2,74, credo di avere detto tutte quante le big almeno fino a questo momento, vi do anche gli assicurativi, Unipol più 2,15, Generali più 2%, Azimut più 1,79, anche se più settore del risparmio gestito questo, non ha avuto un grande andamento Mediolanum, che ha chiuso la seduta con un ribasso dello 0,08%. Allora, tra un quarto d'ora circa, Andrea, avremo i dati sulle matricolazioni italiane per il mese di novembre. Oggi Fiat ed Exor si sono comportate tutt'altro che male, 4,5 punti di rialzo per entrambe. Sì, su Fiat chiaramente c'è molta attenzione per quello che è lo scorporo appunto delle attività industriali che non sono auto rispetto appunto all'auto, che diventerà esecutivo dalla prima seduta del mese di gennaio, quindi anche le case d'affari, gli analisti stanno un po' iniziando le loro valutazioni, anzi insomma stanno definendo le loro valutazioni in vista di questa operazione, ma certamente oggi il mercato auto è andato molto bene in tutta Europa, l'indice di settore è cresciuto del 4%, Fiat complice questa attesa, complice anche l'attesa dei dati auto del mese di novembre, ha fatto un po' meglio e ha fatto meglio anche Exor, la holding di riferimento del gruppo torinese, che ha guadagnato il 4,4%. Una notizia che volevo raccontare agli ascoltatori, che in questa giornata in cui tutte le borse hanno recuperato molto bene in tutta Europa, ha guidato Madrid, la piazza spagnola ha chiuso con un rialzo di 4,5 punti, e quindi anche Madrid oggi si è presa una pausa dall'ondata di vendite che la sta mandando davvero sull'otto volante da molte giornate. Andiamo avanti, allora magari facciamo in tempo a dare un altro titolo, poi riprendo Andrea Fontana dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Beh, qua ci sono state delle notizie sulla galassia del Biscione, Andrea, media 7+3 e 93%, questo titolo non so quanto abbia perso da un paio di settimane a questa parte, più del 20%, credo oggi però un'iniezione di fiducia l'ha fatta il capo. Sì, certamente, diciamo che Mediaset, da quando ha comunicato i dati dei primi 9 mesi, che hanno lasciato qualche perplessità sulla ripresa del mercato pubblicitario e sull'aumento dei costi della produzione televisiva, che peraltro sono coincise con la crisi di governo, l'incertezza rispetto all'esito all'andamento del governo Berlusconi, ha lasciato sul terreno oltre il 14% in circa 3 settimane. Ieri Silvio Berlusconi, attraverso la famiglia Berlusconi, che controllava già il 38,5% attraverso Fininvest, ha comunicato di aver acquisito ancora una piccola quota, cioè lo 0,3% circa, attraverso una società lussemburghese, portando quindi la quota complessiva vicina al 39%, sulla soglia del 39%, diciamo, questo è stato letto dal mercato come un segnale di ulteriore fiducia nella famiglia al titolo, e questo ha permesso il recupero di oggi, che come tu ricordavi è stato del 4,4%. Prima di raccontare qualche altra storia, sentiamo un po' cosa succede sulle strade italiane. Focus Economia. Ancora con Andrea con Andrea Fontana a commentare la giornata di borsa. Ho fatto un mix di parole. Che cosa ci rimane da raccontare? Andiamo a vedere cosa succede dall'altra parte oggi della classifica, chi si è comportato peggio. Terna, -1,82%, peggior titolo della giornata sul FTSE MIB. Andrea. Sì, innanzitutto l'andamento di Terna va da una parte certamente associato a quello di Snam, sono i due titoli che solitamente si mostrano più in tenuta e più brillanti quando i mercati scendono, ma che poi vengono un po' abbandonati per andare su titoli un po' più rischiosi o un po' più con maggiore margine di rendimento e di crescita quando le giornate vanno bene. Quindi questo è certamente uno dei fattori che ha penalizzato sia Terna che Snam Rete Gas. La flessione di Terna è senz'altro segue quelle che sono le vendite delle ultime 3 settimane sul titolo, che aveva toccato i massimi storici vicini a 3,5 euro. C'è anche insomma qualche timore che possano esserci delle novità negative nel caso in cui si applicasse qualche nuova tariffa a Terna come a Snam, quindi alle reti di distribuzione sia elettrica che del gas, e questi rumors, peraltro non confermati, hanno un po' messo sotto pressione i titoli. Andiamo ad un ultimo titolo, Andrea, insomma il malumore intorno a Finmeccanica non si ferma, anche oggi -0,34%. Sì, certamente la questione relativa ai fondi neri che ha investito Finmeccanica negli ultimi giorni non permette tranquillità agli operatori, anche se oggi non ci sono novità particolari che riguardano la società e le indagini. Certamente il mercato preferisce mantenere un atteggiamento di cautela sul titolo, gli ha fatto perdere molto negli ultimi giorni, ma nonostante l'euforia di oggi non sono stati molti, diciamo, gli investitori che sono andati a ricoprire sul titolo, e pur con una flessione abbastanza ridotta, 0,3%, insomma il titolo è andato in controtendenza rispetto al mercato. Benissimo, Andrea, grazie per essere stato con noi, ti auguriamo una buona serata. Buona serata a presto. Io tra l'altro do anche agli ascoltatori che ce lo chiedono abbastanza insistentemente i migliori titoli in assoluto di questa giornata. Vedo per un gruppo di 4 società addirittura una crescita a due cifre: CareSelf +26,29%, TAS +14,95%, la società editoriale Vita, questa è una società che ha debuttato da un mesetto circa, è andata sempre piuttosto bene, +13% anche oggi, e poi Sopaf +10,53%. I peggiori Carrefour -6,42%, Premafin Finanziaria, ne parlavamo prima con Andrea Fontana, -5,89%, Mediacontech -5,33%. Il mercato valutario, non dimentichiamocelo, oggi l'euro ha recuperato la soglia di 1,31 sul dollaro, si è portato a 1,3137, ha riperso questa soglia, adesso viaggia intorno a 1,3078. Adesso quale altro capitolo apriamo? Ne potremo aprire un paio. Vorrei raccontarvi un po', prima di andare ai consumi, qualche altra notizia che oggi riguarda il mercato obbligazionario. Allora, i mercati oggi, non solo sul fronte azionario, sono apparsi un po' più tranquilli, perché c'è stata una netta riduzione degli spread dei titoli di Stato dei paesi periferici. Lo spieghiamo tutti i giorni, gli spread sono i differenziali di rendimento che appunto vengono a manifestarsi in riferimento anche a come va il rendimento del titolo decennale tedesco. E allora ieri, come sapete, c'era stato questo record dall'introduzione dell'euro per il differenziale di rendimento fra il decennale italiano e quello tedesco, oltre i 200 basis point, i 200 punti, oltre il 2%. Oggi c'è stato appunto un ridimensionamento e lo spread è tornato sotto i 180 punti, a 179 dal record appunto di 210 di ieri. Per la Spagna il differenziale di rendimento dei bond decennali con il Bund tedesco si è ridotto a 254 punti dal picco di 310. Per quello che riguarda invece il Portogallo, la riduzione è andata da 458 punti, la quota record toccata ieri, ai 390 punti di quest'oggi. E questo è un tema appunto che peraltro magari ritoccheremo dopo nel nostro collegamento con il nostro Dino Pesole. Un'altra cosa che va ricordata, l'abbiamo detta molto velocemente all'inizio ma la stiamo ricordando da questa mattina, oggi ci si immaginava in sostanza un po' più di malumore sul mercato perché l'agenzia internazionale di rating Standard & Poor's ha messo sotto osservazione con implicazioni negative il rating a lungo e breve termine del Portogallo. E nonostante questo, che cosa è successo? Che oggi il Portogallo ha collocato sul mercato titoli di Stato ad un anno per 500 milioni di euro, non solo li ha collocati tranquillamente, ma addirittura ha avuto da parte della comunità di investitori internazionali una domanda che ha superato 2,5 volte l'offerta. E però non è che non abbia dovuto pagare il Portogallo, perché ha dovuto offrire rendimenti più elevati. Il tasso medio è salito al 5,28%, in deciso rialzo rispetto al 4,81% offerto nell'asta precedente. Intanto oggi una notizia è arrivata anche dalla Spagna, che ha messo a punto il piano di privatizzazioni che coinvolgerà fra l'altro gli aeroporti e, pensate, anche le lotterie nazionali. Lo ha annunciato il primo ministro Zapatero. Il governo voterà venerdì prossimo un pacchetto di misure per rilanciare la ripresa economica, l'occupazione, la riduzione del deficit. Una misura punta alla riduzione fiscale per le imprese con l'allargamento della base imponibile delle società con utili fra 120.000 e 300.000 euro. La misura interesserà 40.000 tra piccole e medie imprese. Inoltre, le società non saranno più obbligate a pagare una quota alle Camere di Commercio e verranno adottate misure per semplificare e ridurre i costi per creare un'attività imprenditoriale. Oltre alle misure fiscali, altri provvedimenti interesseranno il mercato del lavoro attraverso una nuova regolamentazione delle agenzie private di collocamento, che favorirà la creazione di impiego. Inoltre, terminerà il programma straordinario per i sussidi alla disoccupazione. Intendiamo poi privatizzare fino al 30% della lotteria di Stato e fino al 49% dell'ente di gestione degli aeroporti e di affidare alla gestione privata gli aeroporti di Madrid e di Barcellona. La gestione dell'aeroporto di Madrid e Barcellona sarà privata. Ritorniamo invece velocemente in Italia perché oggi abbiamo avuto il rapporto previsionale sull'andamento delle spese per quello che riguarda questo mese, per quello che riguarda questo Natale e l'orientamento anche delle tredicesime italiane in rapporto appunto di Confcommercio. Infrenata la spesa media per ogni famiglia italiana per questo Natale, Confcommercio calcola che saranno destinati alle spese natalizie 1.337 euro, 17 euro in meno, cioè meno 1,2% rispetto allo scorso anno, quando dal portafoglio pro capite dei nuclei familiari erano usciti 1.354 euro. Il calo dei consumi natalizi provenienti dalle tredicesime e degli accantonamenti da parte delle categorie che non beneficiano della tredicesima mensilità, spiegato Confcommercio, risulta al netto dell'inflazione e al netto dell'incremento numerico dei nuclei familiari. Sentiamo Mariano Bella, responsabile dell'ufficio studi di Confcommercio, che abbiamo interpellato questa mattina a Salvadanaio. Complessivamente i consumi aggiuntivi del mese di dicembre, che sono regali o anche a tantissime altre cose che non riguardano la festività, dovrebbe essere sul livello dello scorso anno, tolta l'inflazione, quindi in termini reali praticamente i consumi sono fermi sui livelli dello scorso anno e quindi la notizia non proprio positiva che possiamo dire è che la ripresa del prodotto lordo, cioè i primi tre trimestri del 2009 sono tre trimestri tutti positivi anche se con ritmi decrescenti, la ripresa del PIL non si è ancora tradotta in una ripresa dei consumi, sebbene poi le famiglie anche in termini di scelte e di orientamenti d'acquisto anche in vista del Natale mostrano una vitalità, una voglia di come dire, fare di necessità virtù, ma insomma una virtù che crei benessere, che si pone su basi diverse, cioè con minori quattrini. Ci fermiamo rapidamente, adesso il GR, Salvadanaio, Focus Economia torna subito dopo, tra poco. Sono le 18, quasi 08 minuti. Ancora buonasera da Deborah Rosciani per la seconda parte di Focus Economia dedicata ad un paio di temi piuttosto interessanti. È proprio una coincidenza strana, ogni volta che mi capita di condurre questa trasmissione c'è sempre il dato sulle matricolazioni, quindi capita regolarmente all'inizio di ogni mese che debba fare la sostituzione di Sebastiano Barisoni. Ci tocca anche questa sera perché poco fa il Ministero dei Trasporti ha divulgato i dati delle immatricolazioni auto in novembre. Abbiamo un nuovo calo a due cifre, non vi do ancora i dettagli perché ve li faccio svelare tra qualche istante dal nostro esperto preferito del settore, senza offesa per nessun altro, ma diciamo il nostro esperto più in assoluto ascoltato da Radio 24, Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor. Quagliano, buonasera, bentornato a Focus buonasera. Economia. Grazie per il preferito. Allora, chi dà la cifra del calo, perché tanto di un calo si tratta, questo quantomeno non è una sorpresa, è una cifra, come dire, anzi una doppia cifra, ma è una cifra più preoccupante delle attese, Quagliano, oppure in linea con le attese? È una cifra in linea con le attese, svegliamo anche il segreto, è meno 21,13, quindi sono 145.198 immatricolazioni contro le 184.099 dell'anno scorso. E questo è l'ottavo calo consecutivo di questo anno. Che permette peraltro anche di fare delle previsioni, chiaramente poi noi all'inizio di gennaio sapremo cosa è successo a dicembre, se qualcuno magari con la tredicesima che arriva farà qualche anticipo di acquisto su un'auto nuova, questo non lo possiamo sapere, però anche dicembre è presumibile pensare che sarà con un segno meno così importante, quindi complessivamente poi il 2010 come potrà chiudersi, Quagliano, perché sono sicura che voi comunque le vostre stime, le vostre previsioni le avete fatte. Sì, le abbiamo già fatte, il 2010 chiuderà con 1.955.000 immatricolazioni e quindi con un calo sull'anno precedente del 9,5%. Ma questo dato però viene ottenuto con incentivi alla rottamazione che erano in vigore nei primi tre mesi di quest'anno. Senza questo effetto incentivi il dato del 2010 sarebbe di 1.840.000 autovetture, quindi sarebbe veramente un dato molto basso se pensiamo che nel 2009 le immatricolazioni erano 2.160.000. Avete previsto anche che questo livello di immatricolazioni, 1.955.000, dovrebbe mantenersi anche sostanzialmente nel 2011. Poi naturalmente andiamo alle case perché già qualche ascoltatore ci sta chiedendo come è andata Fiat e quant'altro. Però il raggio, come dire, previsionale che riguarda anche il prossimo anno, che cosa indica? Ma sì, l'anno prossimo potrebbe esservi un piccolo incremento. Noi abbiamo previsto di arrivare a 1.960.000. Questo vuol dire però vuol dire anche recuperare l'effetto incentivi che non ci sarà l'anno prossimo, quindi compensare quelle circa 100.000 vetture in più che sono state dovute agli incentivi e che l'anno prossimo invece il mercato dovrà guadagnarsi sul terreno, perché non ci saranno incentivi, almeno così pare. Così pare, mi pare più. Che qua la coperta sia davvero striminzita per incentivi di ogni tipo. Allora andiamo a Fiat, andiamo un po' al lingotto, perché adesso io forse non capisco bene i dati, probabilmente anche questi erano attesi. C'è però un dato negativo sulle immatricolazioni, adesso ve lo do, anche questo chiaramente atteso. C'è una risalita però per quello che riguarda la quota di mercato, Quagliano. La quota di mercato di Fiat? Sì. Stiamo la quota la, di io vedo dalle agenzie 28,5% e l'agenzia Radiocor dice è salita il 28,5%, per questo ho interpretato un miglioramento della situazione. No, ma è l'anno scorso era il 35, quindi c'è un calo di quota di mercato. Perfetto, infatti adesso me lo stavano indicando anche i miei assistenti, quindi in salita rispetto al mese scorso, però ancora in calo rispetto ad un anno fa. Sì, rispetto ad un anno fa. Quante vendite ha fatto in meno Fiat in novembre? Veramente, guarda, i dati sono arrivati in questo momento. Ma cioè, allora le agenzie oggi sono state veramente rapidissime. Speedy Gonzales, meno 26% per le vendite del gruppo, leggo. Me lo può confermare, Quagliano? Sì, sono meno 25,5. Ecco qua, no, comunque anche per così raccontare, guarda, ai nostri ascoltatori che davvero stiamo commentando in diretta. Sono in novembre sono meno... Meno 26%, sì. Meno 26%. Allora, visto che stai... E quindi, quindi la quota è calata perché il mercato è stato meno 21,13%. E certo, infatti. Allora, altre indicazioni che così con il colpo d'occhio si possono vedere dalle statistiche che ha sotto gli occhi? C'è qualcosa di interessante o è ancora troppo presto per... È ancora troppo presto, ci sono dei cali, ad esempio Ford perde il 27%. Quindi, mentre invece c'è anche chi guadagna, perché ad esempio Nissan guadagna il 5%, Opel perde il 9,23%, Peugeot perde il 28,5%, Renault guadagna il 17,88%, perde il 21,03%, Seat perde il 32%, Subaru guadagna il 35,32%. Quindi è un quadro ancora un po' grigio. Sì, un po' grigio, direi in chiaro scuro. C'è chi sostanzialmente tiene, chi guadagna, ci sono anche molti che perdono. Ecco qua intanto ho l'agenzia un po' più articolata rispetto all'andamento del mercato per quello che riguarda Fiat, che a novembre ha immatricolato oltre 41.000 vetture, registrando il 26% in meno rispetto allo stesso mese del 2009, meno 21% il mercato, lo ricordiamo ancora, e ha ottenuto una quota di mercato del 28,5%, mentre nel 2009 era stata del 30,4%. Gianprimo, io credo che per questa sera siamo a posto così, insomma non abbiamo molte altre indicazioni da dare, è stato un anno nero per questo settore, insomma incentivi sono potuti durare pochissimo senza nessuna promessa peraltro di ripeterli, ma insomma per far risollevare l'umore questo comparto solo con gli incentivi bisogna farlo? Non è detto, noi abbiamo presentato oggi nella conferenza stampa che precede l'apertura delle giornate dedicate appunto ai giornalisti del Motor Show la nostra previsione, e per il 2012 prevediamo che il mercato arriverà senza incentivi a 2.100.000, nel 2013 a 2.200.000, per portarsi poi nel 2014 a 2.350.000, cioè allo stesso livello degli anni migliori che abbiamo avuto in questo secolo, diciamo. Benissimo. E quindi c'è un c'è anche la possibilità, il mercato ha certamente la possibilità di risollevarsi anche senza incentivi. Certo, i tempi saranno più lunghi, però. Però siamo positivi. Grazie Gianprimo Quagliano, okay, direttore d'accordo. Del Centro Studi Promotor. Buonasera. Grazie, buonasera. Buonasera. Andiamo adesso a un nuovo break per poi tornare appunto a parlare anche di questo articolo del Financial Times di questa mattina sull'Italia, bastione contro il contagio, bene i conti pubblici, ma insomma abbiamo aspetti che ci salvano dalla crisi che ci attanaglia attorno a noi, quella greca, quella irlandese, quella del Portogallo e quella della Spagna, e però dice il Financial Times, nell'edificio Italia ci sono anche delle crepe, analizzeremo questo articolo tra pochissimo. Eccoci ritrovati in diretta. E allora, da che cosa partiamo oggi? Sì, ripartiamo un po' dal tema dell'andamento del mercato obbligazionario di questi giorni, la grande tensione che si è manifestata soprattutto ieri quando, rispetto al titolo decennale tedesco, il nostro BTP ha segnato un allargamento dello spread oltre il 2% a 210, si dice così in gergo, basis point, quindi ai massimi da quando la moneta unica europea è stata introdotta, quindi dall'avvio dell'era euro. Ieri questo ha creato naturalmente un po' di tensione, anche se in molti cercano ancora di rassicurarci dal fatto appunto che la crisi non si propagherà in maniera dirompente all'Italia. E però oggi arriva un articolo del Financial Times che ci ha creato una certa curiosità. Io ve ne leggo qualche passaggio. I fondamentali dell'Italia sono buoni e i politici si lamentano giustamente del fatto che i mercati ignorano i punti di forza italiani, ovvero un debito privato basso, banche uscite virtualmente illese dalla crisi, ma la dura realtà è che il destino dell'Italia appare sempre più legato a quello della Spagna. Questo appunto il Financial Times in questo editoriale intitolato La tempesta dell'euro area fa rotta verso l'Italia. Allora io vorrei commentare un po' questo articolo insieme al nostro Dino Pesole, collega delle Sole 24 Ore, che Sebastiano Barisoni definisce sempre l'uomo della finanziaria, non si chiama più finanziaria, si chiama legge di stabilità adesso, ma la sostanza non cambia. Dino, buonasera. Buonasera, eccomi. Hai letto questo articolo del Financial Times? Peraltro, oltre all'articolo centrale, ci siamo guadagnati poi anche il commento sulla Lex Column, che è questa, appunto, questa sorta di editoriale molto prestigioso sulle Financial Times, che parla proprio di crepe nell'edificio Italia. Che ne pensi? Ho letto entrambi gli articoli, sono interessanti, per la verità per certi versi anche leggermente contraddittori, perché se esatto, da un lato è vero. Si pone in risalto qual è l'elemento di forza del nostro paese e si fanno anche elogi, vedo, al ministro Tremonti, però poi a un certo punto si dice certo la situazione potrebbe precipitare laddove appunto le emissioni dei titoli del debito pubblico, noi sappiamo che ce l'ha detto il direttore del debito pubblico, la responsabile, che è Maria Cannata, che ha parlato di 240 miliardi di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine nel prossimo anno. Ecco, laddove queste emissioni coincidessero con la crisi politica e dunque con la probabile caduta del governo Berlusconi, ecco che potrebbe verificarsi uno scenario pericoloso per il nostro paese, che però allora trovo leggermente in contraddizione col titolo, che parla già di crisi dell'Eurozona che fa rotta già ora verso il nostro paese. Ma io penso che comunque nello stesso editoriale, nello stesso articolo del Financial Times, in quello che si coglie in queste ore in giro un po' per l'Europa, certamente c'è la preoccupazione, perché non possiamo negarlo, il problema riguarda tutti i debiti pubblici. Ieri addirittura all'ambito il Belgio, che è un paese tendenzialmente che ha dato dimostrazioni di saper ridurre il debito pubblico in modo abbastanza incisivo. Dunque non credo che ci sia qualcuno che si possa sentire sollevato dal problema. Certo, noi abbiamo punti di forza e punti di debolezza e con questi dobbiamo fare i conti. Allora, in tutto questo oggi si è creato anche, chiamiamolo così, un piccolo giallo in termini di queste dichiarazioni che sono state attribuite al ministro dell'economia Giulio Tremonti, che nell'incontro fra regioni e governo che ha tenuto oggi qualcuno avrebbe intercettato questa frase da parte di Tremonti: la situazione è indecifrabile, imprevedibile, non si sa bene in merito a che cosa lo dicesse, fatto sta che qualcuno uscito da questa riunione ha rilasciato ai giornalisti questa dichiarazione appunto attribuita a Tremonti. Chiaramente potete ben capire, quando il ministro dell'economia di un paese che in questo momento in certe giornate viene considerato sotto tiro, è chiaro che bisogna un pochino correggere la rotta. Il ministero dell'economia l'ha fatto abbastanza rapidamente, e però oggi si è riunito anche Dino il comitato di stabilità finanziaria a cui ha partecipato Tremonti, hanno partecipato appunto i rappresentanti del Tesoro, della Banca d'Italia, della Consob e dell'ISVAP. I nervi sono tesi, questo non ce lo possiamo negare, mi sembra di capire. Ma insomma, rispetto a questa dichiarazione del ministro dell'economia, che idea ti sei fatto? Insomma, è stato un momento così di, non dico di leggerezza, perché i ministri dell'economia in questa fase non sono leggeri, però ogni dichiarazione viene accuratamente pesata. Io credo che il ministro Tremonti abbia nel corso della riunione fatto riferimento, si trattava di una riunione importante con i governatori, perché sono in gioco appunto le risorse in previsione anche dell'avvio concreto del federalismo fiscale, abbia fatto riferimento alla situazione quale quella si sta determinando sui mercati finanziari in questi giorni, e naturalmente le sue non possono che essere al momento valutazioni di preoccupazione. L'agenzia riportava per la verità anche qualche cosa in più, perché secondo questa agenzia Tremonti avrebbe detto nel weekend ci sarebbe una situazione non prevedibile. Ecco, questo non credo che possa essere poi in qualche modo confermato. Certamente c'è in questo momento in Europa una consultazione permanente tra i ministri economici. Domenica scorsa c'è stato un Eurogruppo Ecofin straordinario, ce n'è un altro ordinario lunedì e martedì a Bruxelles, domani si riunisce il consiglio direttivo della BCE. Insomma, c'è un'iniziativa congiunta sia da parte dei governi che da parte della Banca Centrale, e con l'obiettivo di difendere la moneta unica. È ovvio che in questa situazione qualsiasi informazione che possa essere diffusa da fonti cosiddette indirette può creare problemi seri. Dunque, secondo me, ha fatto bene il ministro dell'economia a chiarire che quello non era il suo pensiero. Dopodiché, che ci sia una situazione di tensione mi sembra evidente. Ma sì, infatti, veramente scopriamo l'acqua calda. Ah, hai fatto bene a citare la riunione di domani della Banca Centrale Europea, perché si è appreso oggi che, a prescindere dal fatto che non toccherà i tassi di interesse, domani, di fronte proprio all'escalation della crisi delle ultime giornate, potrebbe far slittare la sua decisione di proseguire nella sua azione di uscita, della sua strategia di uscita dalla crisi, e addirittura l'ANSA dice proprio così: potrebbe rafforzare il proprio arsenale per combattere la sfiducia dei mercati, intraprendendo un'azione simile a quella enorme che ha fatto la Federal Reserve qualche settimana fa, quando ha deciso di comprare titoli di Stato americani per qualcosa come 600 miliardi di dollari. E domani la BCE potrebbe decidere qualcosa del genere. Come dovrebbe essere salutata questa iniziativa, Dino? Ricordiamo che finora la BCE è intervenuta con un piano di acquisti di titoli di Stato che è tutt'altro che irrilevante, si parla di 67-68 miliardi di euro. Dunque già ha messo in atto questa strategia di uscita, che peraltro è stata decisa nel famoso weekend degli inizi di maggio, quando la Grecia è andata un passo dal default. Io credo che questo sia il segnale però che la Banca Centrale intende lanciare, assolutamente per calmare la situazione sul fronte dei mercati. Non è risolutivo, perché è evidente che non è che si risolve con acquisti massicci dei titoli degli stati sovrani, dei debiti sovrani, si risolve il problema. Qui c'è bisogno di una assunzione di responsabilità che non può che essere duplice: da un lato la BCE fa il suo mestiere, dall'altro però ci vogliono i governi. E qui ritorniamo al problema di sempre. Il problema di sempre è che l'Europa ancora una volta fa fatica, perché parla linguaggi diversi, ogni paese parla il suo. E dunque forse sarà giunto il momento di cominciare a dare dei segnali più coordinati di politica economica, e questo credo che possa essere il segnale indiretto della BCE domani. Cioè, noi siamo pronti a fare il nostro compito, il nostro ruolo, ma i governi diano un segnale preciso. Un'ultima, a proposito di segnali precisi da parte dei governi, la prossima settimana, tu lo anticipavi già, c'è la riunione del Consiglio europeo. Se passa la versione più rigida della riforma del patto di stabilità e ci chiedesse una manovra correttiva severa, Dino, la tensione di questi giorni si acuirebbe ulteriormente? Beh sì, anche perché poi bisognerebbe capire chi questa manovra la dovrebbe condurre, vista la situazione politica. Ah beh certo, quale ministro del tesoro? Ecco, ma comunque qui bisogna essere poi abbastanza precisi a non ingenerare poi anche confusione. Cioè, in realtà la Commissione europea ieri ha stimato un deficit più alto nel 2011 e lo scarto tra la previsione della Commissione e quello italiano è esattamente di 7 miliardi, ma questo non equivale necessariamente al fatto che occorra una manovra aggiuntiva. Questo è un punto. L'altro è questa questione a cui facevi cenno te, che invece è molto più seria e dirompente, perché laddove il Consiglio europeo del 16 e 17 decidesse per la versione, come dire, più rigida, più rigorista del nuovo patto di stabilità, allora lì potremmo essere chiamati a uno sforzo supplementare che comunque sicuramente non sarà dell'entità di cui si parla in questi giorni. Ho letto di 40 miliardi, 45 miliardi, certamente l'Europa a nessun paese può chiedere uno sforzo di questo genere. Però certamente abbiamo un problema. E infatti, allora lo affrontiamo una volta, va intanto. Dino, grazie, buona serata. Grazie a voi. Da Dino Pesole a Giuseppe Cruciani. Ci dobbiamo accontentare. No, un bel passo, altro che. Allora, che cosa ci stai preparando? Allora, parliamo di cosa? Parliamo ancora del post, il giorno dopo l'approvazione della riforma sull'università, le polemiche politiche anche sulla morte di Monicelli, incredibile. Una morte laica, si è lasciato morire, eccetera, eccetera. Se ne parla addirittura in Parlamento e poi avremo come ospite, ricordate, quel consigliere comunale a Roma che fu trovato in casa con alcuni transessuali ed è stato accusato anche di aver abusato di cocaina, eccetera, eccetera. Insomma, ci fai divertire anche stasera. Io vi lascio alla Zanzara da Deborah Rosciani. Buona serata a tutti. Radio 24. La passione si sente.